utopia che pur non essendo comunissima è abbastanza nota, abbastanza diffusa. Il testo dovrebbe servire solo da innesco a una discussione, quindi non stabilisce né dei significati ultimi, propri, veri, né diciamo contesta alcuni significati attribuiti, semplicemente è un insieme di riflessioni, anche se vogliamo marginali, casuali, che dovrebbero in qualche maniera avviare un lavoro collettivo. Utopia. Spesso la si considera con sufficienza, dall'alto in basso, quando semmai è l'utopia che costantemente ci sfugge verso l'alto. È un utopista uguale a un sognatore. È inutile correre dietro alle utopie, tanto non si raggiungono. Utopia letteralmente significa che non ha o non è un luogo, eppure gli umani difficilmente vi rinunciano, quasi impossibile tradirla data la sua inafferrabilità. Se non nei nostri progetti concreti, nell'evanescenza dei nostri sogni, l'utopia ha una sua inelebinabile presenza. Ne negheremo qualsiasi ruolo nella realtà? L'amore universale, predicato e incarnato da Gesù Cristo, l'uguaglianza dichiarata dai rivoluzionari francesi, poi pianificata dal marxismo, avevano carattere utopico, tant'è vero che hanno spesso prodotto il contrario di ciò che volevano significare. Ciononostante sono state e sono motori trainanti per interi popoli. L'utopia della felicità, sanzionata dalla Costituzione americana, la ritroviamo oggi, intristita e distorta, nelle promesse del capitalismo mondiale. Dell'utopia non mi interessa il processo, non la realizzazione, il cammino, non il punto di arrivo. Quest'ultimo, ovunque si trovi, non appartiene all'utopia. Questa è una citazione, ma non dirò da chi. In una parola, utopia è il cammino, non la meta.